binario 10, cambio. CQ 10. Avanti binario 10. Ciao Fra. Ciao Gianni. E allora, tornate Lucia. E Lucia arriva mercoledì. Quindi sei solo? Chiave di positivo, mi stavo attaccato alla lavatrice perché dovevo fare il bucato, roba del genere, mi ha lavato la roba, ho pulito tutto dentro casa. Ho sistemato alcune cosette. Mi ascolti bene già? Io tutto stamattina, poi la lavatrice l'attacco stasera, dopo le 8, che sono di meno. Vabbè, io l'ho attaccata adesso, l'ho attaccata poco fa. Mi ha lavato la tuta, tutta la roba che c'avevo da lavare. Mi ha sistemato un po' l'attrezzatura di pesca, ho pulito le canne, tutto. Stai facendo il faccendino, là. Avevi voglia di fare, gira. Già, se no mi annoio, capito. Già è vero, là. Già è vero. Adesso, io stamattina ho provato a attaccare, non c'era nessuno. Ho messo in macchina. Sono uscito, dovevo fare alcune commissioni, l'ho messo in macchina, non rispondeva nessuno. No, io stamattina stavo facendo commissioni, sono sceso in campagna a controllare, stavo sistemando alcune cosette in campagna anche. E poi quando sono salito ho fatto qua, capito? Adesso mi ha pulito tutto, quindi diciamo che me ne sono liberato. Cappa cappa. Va bene, dai. E il cane su ce l'ha. E il cane ce l'ho giù e adesso qua però là ve lo porto su, capito? Cazzo, c'è un bel freddo, poverina. Ah, già brava, solo che fa pelo, quello è. Ah, ce l'ho a casa già. A casa ce l'ha? Me l'ho lavato e me l'ho portato su. Beh, col freddo che sta facendo, curarita a stare fuori. L'ho lavato giù con l'acqua calda, poi l'ho asciugato tutto con l'asciugacapelli. Cappa cappa. Si è fatto una bella doccia, là. Adesso è qua, sopra un divano. E a Roma che ti fai compagnia. Ma prima che venga Lucia lo devi portare giù. No, che lo lascio qua già. Adesso con questo freddo diciamo che rimane qua, capito? In effetti c'è un bel freddo qua, se la notte si abbassa un bel la temperatura. Ma un bel di freddo, stamattina c'era un bel di freddo, un bel. Io sono sempre sotto le coperte, al calduccio. Arrivato sotto le coperte e via. Una di quelle coperte in pile che danno caldo. Infatti la radio me l'ho portata in camera da letto. Anch'io, Anche tanta lì. A prendere freddo in quella camera, no. Me l'ho portata in camera da letto e diciamo che sono sotto le coperte, cambio e passo. Chiudo. Tutti mandroni siamo, avanti da qua lì. Ehi. Ah, c'è un caldo qui e sta così bene. Che tipo di riscaldamento sto usando, Natali? Mi ho comprato la stufa nuova stamattina. È stato un piacere fare affari con te. Di quelle areate a Vibro, ma fatti un calcio, Ah, Vibro. Ma tu non la stavo facendo andare quella che c'avevi prima, la facevi andare anche a Cherosene. Questa la sto facendo andare lo stesso a Cherosene. Non fa il minimo odore, nulla. È di lusso, guarda. Dà un caldo bestiale. E consumo com'è? E consuma di meno temperatura come la programmi tu e poi te la tiene sempre a quella temperatura praticamente. Cappa, buono, dai. Vabbè, la casa già è piccola, la scalda bene, dai. Cava cava, è elettrico, non conviene più a comprare nulla, ui. Entro 2 mesi se ne venderanno molto pochi, con quello che costa la luce. Lo so, purtroppo. Putin ci ha messo col culo per terra, scusando la frase. Perché è tutto un cava cava Natalì, capito care, frate? Tutto sotto controllo qua. Sì, infatti, proprio cava cava. Bene, mi ascolti, sì. Sì, già non credo che lo ascolto bene a lì. E lì come mi ascolta a me? Col baracchino cava cava. Ah, io qua stai arrivando benissimo, non ci sono problemi, ti ascolto benissimo, dai. Questo è cava cava vero, Superstar 2009. Superstar qua sta arrivando 9:10, ieri 9:30, oggi 9:10. vabbè. Questo c'ha 4 watt, c'ha, cosa vuoi fare? Purtroppo è omologato e più di quel tanto non arrivo. Ma non me ne frega niente, chi mi sente mi sente, chi non mi sente non mi sente, cosa vuoi dire? Ma con questo sono entrato nel menu e ho fatto alcune modifiche natalizie, capito? Quindi va bene. Vai Gianni. Ma l'apparato al microfono le modifiche? L'ho modificato dal menu del coso, del baracchino, dai. Ah, mamma mia, a me collego il menu non mi biasi. Sei tu che qualche cosa fa casino, oi, e dopo non riesci più a entrare a metterla a posto. È un casino con questi menu. E a me mi è successo con il ricevitore. Prendendo l'ho toccato, siccome touch screen, ho toccato, deve essere qualche cosa e boh, mi ha messo dei numeri strani che non avevo richiesto io. E ho provato, ho riprovato, alla fine ho dovuto spegnerlo, resettarlo e poi si è rimesso a posto da solo. Là. Ma io ti posso dire che sono entrato nel menu e non ho avuto nessun problema. Mi ho scaricato il coso in italiano perché era inglese e sono entrato nel menu e gli ho fatto tutte le modifiche che potevano fare, capito? Va bene, puoi aumentare di watt, così è. Allora, questo qua usciva con 4 e io l'ho portato a 10. Però lo potevo, c'avevo la possibilità di portarlo anche addirittura a 30, però lo lascio a 10 così, lo posso abbassare da 5 a 10, cioè da 2 a 10. Che apparecchio è questo? Questo qua? Questo è il Superstar 6009. Ah, capito. Caccio la vita. No, va benissimo, dai. Vabbè, il microfono è l'originale, Sì, ma è bello, è bella forte la radio. Microfono originale e apparecchio, tra l'altro il Superstar 6009, e gli ho fatto alcune modifiche che sono entrato sul menu e gli ho fatto alcune opzioni che c'erano da fare, dai. E anche il macchinino dal menu quello regola, tutto dal menu fa. E scappa Natali, infatti l'ho fatto proprio dal menu, Mickey Gay, PVR, ALC, coso, SWR, coso stazionario, è tutto, la regolazione dei toni, ho impostato l'orario anche. Ehi, fa tutto quello dal menu, è bello. Ce l'avevo io così. Addirittura questo, tu, gli dai la... si accende anche in automatico se vuoi, capito? Lo metti, gli dai un orario e lui a quell'ora si accende in automatico e poi lo puoi accendere e si spegne tutto in automatico. Sì, gli dai un orario. Cava di positivo e si conferma. Microfono originale, tutto originale questo. Vai Gianni. È omologato. Cava di positivo, omologato c'è, sì sì. Ma se sei con 10 watt non è più omologato. Che tu lo sai, esce con 10 watt, io schiaccio il pulsantino e ritorna normale come era prima. Ah ecco. Già. Faccio capito. Natale avanti. E questo pure io lo posso fare uscire con 10 watt, solo che te lo tocco per l'omologazione, perché bisogna aprirlo da dentro, capito? Questo non ha né canali, nulla, non ha niente. Lo devo lasciare così perché è omologato, capito? Aspetta un attimo. Vai fra, ah, forse si sta allontanando, dai. Vabbè. Oh, yeah. Intanto qui per colore dove siamo, se presi un canale siamo, che cosa te ne fai di canali natalini? Ehi, in estate già era bello, me ne andavo nei canali di chiamata e potevo farmi qualche di ex in banda laterale, perché c'è anche le bande laterali, ma già ce l'hai tu, è uguale a quello che hai tu, quindi. Solo che questo è chiuso perché è omologato, se vuoi io lo sblocco, però dopo per l'omologazione se lo sblocco, e io lo voglio lasciare normale, è che non ho un altro baracchino magari con le bande laterali tipo il 6009 come quello di Franco, io ce l'avevo quello lì e me l'ho venduto. Le mani mi dovevo tagliare, quello andava bene. Quello che avevo io pompava di brutto. Ma 3009? No, quello il 5555 era. È come il 6009. Quello lì pompava un bel. Aspettando di esplodere. E si poteva regolare dalla manopola, cioè la manopola del power, praticamente usciva con 2 watt e lo potevi portare a 50 nel bar. 50 watt e chi ti ribari? Non lo dovevi dare, era una bella apparecchio, sicuramente era bello, io non lo conosco, però sicuramente era un bel apparecchio, si usciva con tutti quei watt. No, io quello che ho, il 3009, esce un bel bene, non lo do quello lì. Oh. Lo so, anche io sto dando il 3009, no, quello che avevo io serve un bel lì, col frequenzimetro, con i numeri grandi grandi, poi c'aveva i canali, c'aveva banda laterale, c'aveva tutto, ma io devo dire, non rimancava nulla. Ci sono anche due persone che... È venuto un amico un giorno che era senza baracchino, gliel'ho dato io. Però me ne sono pentito perché era troppo bello quello lì. Ma lo sai che mi faceva? Scusa il telefono. Vabbè, Brigido! Bello, Manuele! Oi, già! Ma tu Brundighi stai vendendo? Non l'ho capito. Se stai vendendo un Brundighi. Un Brundighi? Ma televisore? No, baracchino. Sì, sì, sì. Allora già eri tu. Se c'è il mio nome. Tappa. Quanti ne hai di questi apparecchi vintage? Io ne ho tre. Quello è un coso, come si chiama? Il president. Lo sto usando io adesso, quello non lo do, sono cosa uso io. Vabbè, quello lì è bello, quello esce bene. E sto usando questo. Esce bene, esce ad il radio, che tutto, dai. Andare. Chi è che sta facendo la papera o ma sta dicendo cosa? Avanti. Fanno le smurfie e poi non entrano, ma. Avanti, Frank. Atta di. Uia. Che è entrato. Che è entrato Manuele, vai. Ciao Manuele, ben sentito, buonasera. Oggi ti sento tornare bene. E beh, Natale, tutto a posto, sì. Sì, tutto a posto, è da mettere a posto, Manuè. Ad un'ora tu pure, sì. Come? Ad un'ora sì, tu pure. No, negativo, già sto bene. Adesso già sto bene, per il momento. Vuoi mai sentire il sesto, sì? Sì. E tu sì. Solo che se non smetto di fumare, mi ha detto che devo chiudere bottega in fretta, mi ha detto il dottore. Devo smettere di fumare subito, se non smetto di chiudo bottega immediatamente perché si sta tappando tutto, tutte le arterie tappate, ciò. Vai tu, e allora se che non fuma più, piano piano, fai qualche cosa. Ehi, sto fumando di meno, ma a smettere non ce la faccio, boh. Da 70 anni che fumava, fermo 40 anni. Ehi, non lo so quanti anni, da ragazzo di 15 anni mi sembra. Vai tu, adesso più di 40 anni. Volere e potere, io ne fumavo anche 2 pacchetti, un giorno ho preso, ho strappato tutto e non avevo più sapere, e non ne ho più comprato, e sono la bellezza di quasi 16 anni che non fumo più. E andate che mi sei riuscito già. Per forza di cose, nata lì. Ho cominciato da 10, 15, poi 20, poi andavo a pescare, lanciavo una fendina di sigaretta, da voi mentre aspettavo me ne fumavo altri 2, 3, 4 anche, cioè lo faceva, dai. Di 2 pacchetti ne portavo, cosa di bussi, 3 o 4 a casa, fate il conto. Oltre la spesa, ma non è tanto la spesa quanto la salute, capito? Sì, infatti, io ho fatto un esame da poco, mi ha detto 2 mesi di vita massimo, se lei non smette subito di fumare, ma subito però mi ha detto. Vabbè, non ti ha fatto cagare manco quello, io avrei smesso immediatamente, avrei preso già la decisione. dinanzi a lì. Io te l'ho detto dall'inizio, da quando ti ho avuto l'infarto, ho detto tu devi smettere adesso non toccarmi più sigarette. E invece tu sei più forte di te, boh. Non ce la faccio. Sì, ma allora c'è un amico sotto casa, purtroppo c'ha un tumore ai polmoni e fuma sempre, mi ha detto non ce la faccio a smettere, già non ce la faccio, e c'è anche questo tumore, quindi se lo aggrava ancora di più. Lo so, lo so, sembra così, ma è peggio della droga. Guarda, se tu pensi all'atto che fai, dici basta, cosa non ha senso, metti il fumo in bocca, poi lo butti fuori, e che senso c'ha? È proprio un vizio, una cosa che è inutile, no? Se tu ci pensi bene, io ho pensato a questa roba, capito? E ma che cavolo, metti il fumo in bocca, poi lo togli fuori e ti rovini la vita, ma stiamo scherzando. Avanti, Emanuele. Quanto siete Charminducci, buonasera. Ciao a tutti. Non lo metti in bocca al fumo, te lo porti nei polmoni e poi lo ributti fuori. Non tutti, c'è gente che non aspira il fumo e sta guidando un odore al palato. Dice che io non aspiro, non mi fa niente, non è vero. Se l'ha preso al palato. Ma io sono 8 anni che non fumo più. Ho detto basta e boh, e fatto non più fumato. Quanto sei? 8? 8 anni sì. Io 15. E vabbè, io fumavo quasi 2 pacchetti mincia. Anche io. Quando andavo a pescare specialmente, facevo lanciare se dovevo la sigaretta. Poi aspettando me ne fumavo a gogo, una dopo l'altra. Dunque è forza di volontà smettere di fumare. Natali, devi dire basta e boh. Poi quante volte mi ha tentato, passando davanti al tabacchino dentro e dicevo no, devo essere più forte io, basta, non le vedi più zombie. Io ci ho tentato 5-6 volte a smettere, non ci riuscivo mai. Sennò che poi, quando mi ero ricoverato all'ospedale per il cuore, io pensavo che era una sigaretta, invece non era una sigaretta. E mi ha detto c'è l'artiglia pulitissima, e ho detto no, io ho smesso a fumare, la sua era troppo, quindi. E da lì ho smesso, non ho più fumato, grazie a Dio sono riuscito. E io la prima settimana ho sofferto un bel, dico la verità, ho sofferto un bel la prima settimana. Poi piano piano ho cominciato a comprarmi quelle cingomme da ingum, quelle lì. E mi masticavo una di quelle quando volevo fumare. E sono riuscito a sostituire la sigaretta. E io, ripeto, facevo un passo, è come che ho fatto una corsa di 10 km, non riuscivo più a respirare. Scompenso cardiaco, quindi da lì me lo spaventa talmente tanto che insomma una settimana prima di ricoverarmi avevo smesso di fumare, penso un po'. E poi quando mi hanno fatto l'ecografia eccetera eccetera mi hanno ricoverato l'urgenza e dirò io sono molto meglio, 100.000 volte. Non lo so, non è facile smettere di fumare già, però a me mi è successo questo, che dallo spavento ho smesso di fumare. Poi, un altro non lo so, io non ci sono mai riuscito a vedere 5-6 volte, ho tentato niente. Andabè, Natalino. E io ho smesso un paio di volte, proprio non ne fumavo più, e dopo ricominciavo, ma vaffanguarda. Devi mettere in testa che fa bene la salute anche la tasca, che sono belli di naffi, ne hanno sempre conto. Che tu già, io ero un po' in ascolto poco fa, che stavi dicendo che razza di gusto, mettere il fumo in bocca, buttarlo fuori, cioè è quello che ne prende nel QSO, che gusto ci prende, eppure ce ne sono molti che lo fanno. Interessante che non sia io, eh? Lascio il passo agli altri. E tu non so, ci sono tante cose che gli altri fanno, non si devono fare. E purtroppo io ho tentato anche con un amico che purtroppo ha un tumore ai polmoni e fuma lo stesso. Ci ho tentato, mi ha detto già non ci riesco, è più forte di me. La moglie se l'ha fatto promettere, se l'ha promessa non ce l'ha fatta mancare la promessa. Al capretto, a Puletturino se n'è andato. Cigumi ci sei, Banco, Tantalino. Ui. E se tutti i malati ci sono. Vabbè, Natali, io ti trovo in testa, perché tanto se te lo dicono gli altri non ce la farei mai. Invece è tu a decidere a farlo con forza di volontà. Io sono entrato, no, ero un attimino cambiato con le olive. E capo, sono rientrato pure io, che ero al telefono con Lucia. Capo, capo. ha capito, Natali, sta a te decidere, non è gli altri, come te dico, gli altri non ce la farai mai, devi essere tu a metterti in testa di farlo. Ci ascoltiamo a Nord Italia, comunque già Natalino deve capire lui da solo, inutile che gli altri glielo dicono, tanto lui lo sa lo stesso, che non è una cosa che, è una cosa che fa male, boh, basta, poi si riserva per la salute e anche la tasca, perché sono belle. Natalino deve fare forza e coraggio e insomma forza e volontà forte e dire boh, basta, avanti, fumo più, più delle luci e risparmio anche su luci. Anda bene. Avanti Nord Italia! Ascoltate questo piccolo numero di interrogativo. Ah, Parigi, sta arrivando con Santiago 9 qua. L'operatore è Gianni Dupium, QTH Sassari Nord Sardegna. Cappa, dai, qua a Sassari c'è un question locale, ti faccio vedere avanti gli amici, Franco, avanti per Nord Italia. Avanti Nord Italia, buonasera e ben ascoltato, 5-9, rapporto di segnale per te. Tu sono un'altra propagazione. È un bel forte la propagazione. Bergamo, ce lo puoi immaginare. Provincia di Bergamo. Con una boomerang, capito, Santiago 9 con una boomerang. Attenzione colleghi. Attenzione Livio, provincia di Brescia. Il colpi di Tonino Kawasaki da Sassari. Kawasaki da Sassari. Ok Livio, comunque arrivi 995, radio 45 ogni tanto, la propagazione sale scende. Comunque complimenti, arrivi abbastanza bene alla mia stazione. Ti mando un avanti, un altro amico, avanti Natalino. Qui Joker che chiama, buonasera. Un attimo Joker che c'è un QSO. Oh, Livio, l'amico di Bergamo, non so se mi ascolta, Io purtroppo ho 4 watt solo, Natalino Alfa 1 da Sassari. Dai, se mi ascolti. Si chiama Livio. C'è troppo QSB là. Meno via. Capa Livio, ogni tanto la propagazione sale e scende. Quindi da Santiago 95 arrivi a Santiago 7, poi arriva al QRM e ti copre. Tutto qua. Avanti Gianni. Fai venire avanti a gioca, avanti gioca. Avanti. Oh Gavi. Scomparso Gavi, no? Cappa, dai, io ti posso chiedere un controllino di Santiago Radio, come sta arrivando in quella zona, ti ringrazio. Mi sa che è sparito. Propagazione fasulla, Santiago 9-9-10 arriva a questo smitter, però radio zero. Epoca radio, molto QSB, saliva e scendeva la propagazione, quindi negativo. Io già l'ascoltavo e non so se mi ascoltava lui, perché io ho 4 watt, cosa vuoi arrivare? Oh, sono arrivato anche con un watt in continente, ma quando c'è la propagazione favorevole però. Avanti, Tony. E Natali, io sto usando i watt del baracchino, 5 watt puliti puliti. E io non c'ho neanche quelli, 4 watt da questo. Hai capito? Tony, dammi un controllo di segnale radio a vedere come sto arrivando, fa la cortesia. Io si riporto, il segnale tuo che è 9.30 e la radio è 5 amplificata, per me è ottima qua. Ma di positivo, ok, vai, vai Natali. E che vai, dove vuoi andare? Livio, ci ascolti qua a Nord Sardegna. Buon Livio, mi pare che è scomparso. Propagazione di Pavia, viene oggi, domani se la porta via. Propagazione zero. Io di radio, me ne sto uscendo. Attenzione, canale 10, Nord Sardegna Italia fa chiamata e si sintonizza l'ascolto. Breco, breco. No, è passato QRT, scoso, sì, Livio, come ti chiama? Livio. È livido. Livido è passato in stand-by. Sì, vado, la preparazione è finita, vai. Perché stava arrivando con questo imbusto, non è? Hola. Guarda, adesso la sto abbassando la radio, guarda. 1, 2, 3, guarda, vai. Guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ehi, già arriva, già va bene. Che microfono è? Cattedrale, po'. Il microfono originale suo è dalla radio già. Già va bene, fra. Che microfono è il suo originale? Normale. Non ha bisogno di amplificato qua. Io sto sicuro che se parlate tu e Gianni non passa nessuno dei due. Avete il segnale uguale identico. Vabbè, io sto scendendo con 5 watt adesso, Sto scendendo con l'apparato normale, lo stesso. No, va a parlare già che parliamo. Guarda, vedi che passa, 1, 2, 3. Questi 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Gianni, fai da bravo che io ti ho messo le RFI e quindi non sei 5 watt. Che pumpendi, passava pure in occhi Gianni. Non è possibile che Gianni passi che sei normale con Franco. Ma salvo anche qua. Fai da bravo Gianni Ghiddu, che a noi non ci frighi. 15 anni luci si sciolinerà attaccato. Solo con l'apparecchio e basta. Gianni, 9-10, tutto referente chiuso, tu arrivi 9, normale, non me lo dire a me. È saturazione qua. Avanza, avanti ragione tua, se tu vuoi avete ragione. Cosa vuoi che ti faccia il filmato? Filmato ma devi fare, io so quanto arrivi tu. Quando parli normale sei sempre Santiago 9, referente chiuso. Se 9-10 vuol dire che è così. Aveva ragione. È inutile che insisti, ti sto dicendo che sono con l'apparato senza lineare, senza nulla, solo con l'apparecchio. Ehi, 200 watt, insomma, là ci arriva a 10 in più. Se arrivi lo stesso segnale, scusa poco fa, non passa nessuno dei due, mi. Io non ho detto di essere con 10 watt, solo col Cobra, sto solo col Cobra. Ah, ecco, però non mi dire che sono attaccato perché non è vero. Se minimo 50 watt, quanto sono? Cosa 50? 20 watt. Vabbè, io sto scendendo con 5. Tu attacca quell'altro baracchino normale e prova a muovere con Franco. Io sono sicuro che non passa nessuno di due. Infatti, no, che passava Gianni, lui tappava proprio a Franco. Ed è impossibile. Capito? Anche qua è la stessa cosa, infatti ho abbassato le refighe, ho abbassato. Che poi anche Franco non c'ha 5 watt, perché l'ha detto poco fa che l'aveva portato a 10 watt l'apparato, come fa a essere con 5? Non di fa un watt. No, che ce la fare per regolarlo, anche con 2 watt quello esce. Vatti dalla radio, tutto lì. Se vado nell'altra postazione esco più forte, chiaramente. Vabbè, ma non me ne fotti nudo, a me non ne voglio fare di gare con nessuno, me ne frega niente. Pensate che esco. Proviamo a fare la gara a vedere. Ah, io facciamo la gara che esco con l'apparecchio a virus, che ridiamo. Io chi esce più in basso. La cosa mi ha fatto fare gare, che la corrente costa. No, io non ci vado a prendere freddo là, capito? Preferisco starmene al caldo, non mi interessa la potenza a me. Anche a me, non me ne ha fatti nulla. Io cambio gli apparecchi per farli girare, non è che ieri ci avevo per dire il coso, ci avevo il Ruiz, l'altro giorno ci avevo il Galaxy, poi ho usato il 3009, li uso tutti quanti per farli girare, punto. Ma io faccio girare, c'è il Nido, questa qua c'è il 800, poi Galaxy, poi faccio girare Peroni, nastro azzurro, nastro nero, e avanti a Tani. Carissimo, prepara la Peroni che arrivo. Facciamo girare tutti in bicicletta questa radio, capito? Signori, io devo chiudere perché devo fare una commissione, devo uscire a buttare anche la spazzatura e bla bla bla. Se coincide ci sentiamo più tardi. Ciao Natalino, ciao Gianni, ciao Franco, ciao chi c'è in ascolto, bla bla bla. QRT da parte mia. Ciao ciao. Ciao ciao Tony. Ciao Tony, buona serata, buon tutto e ce la riascolta alle prossime. Ciao ciao, vai già. Poi anche Emanuele, c'è Emanuele avanti. Dai, rimane quelli, se ti ascolto. Ciao Cingomino. Ciao Tony. Fiorellino si chiama, non si chiama Cingomino. Il Fiorellino. Ciao Fiorellino. Sì, Fiorellone, vai Fiorellino. Tu è un porcellone. Cos'è fra? Ho detto, mi ascolti, sì. Sì, lo so che sei a casa tua però. Come non sono a casa? No, perché da casa tua mi arrivi con lo scala. Mica cosa sua, amico. Sto usando l'apparecchio omologato, quello dei cinesi. Capito perché sta fanno basso. Tu sei da Torino. Cosa? Torino. Cos'è Emanuele da Torino? Che male a casa tua. No, ma lui lo fa parlare, lo parlo anche io sopra, lo parlo perché dovrei superarlo più o meno. O te rimando giù, ti diveno, non lo so. Io sono a casa mia, so, guardami. Hola. Io sono a casa mia. Hola. Male a casa tua. No, no, negativo. Al 100%, te lo può confermare anche Gianni Natalino. Avanti, avanti Brecco. Ciao ciao, cuore tacco. Ciao ciao. Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna e Italia fa chiamate e si sintonizza l'ascolto, Brecco Val. Quest way, quest way. Ciao Tony, buon QRT. Ciao ciao. Ciao ciao. Cos'è Emanuele? No, sono a casa, ma sto usando un altro tipo di radio, capito? Io pensavo che... Ma sei uno, sì. Fa passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova, 1, 2, 3. Possibile che mi arriva beccato con la scala? Sono con l'apparecchio omologato, Emanuele. Cazzo, così passa, lì. A te il segnale. Se non sei manco rubi. Colubi. Quanto ti arrivo io, Emanuele? Ma se sei più forte tu, Natali. Più forte io. E mica sono pure apparecchio omologato davvero io, 4W, carissimo. Emanuele, hai spostato l'antenna? No, è sempre così l'antenna tu. Stai un attimo, Emanuele, che è proprio con l'altra radio, ferma, Cazzo, è a 9.30, ma arrivi ma Colubi, pensa tu, è più forte Natali, va dietro. Emanuele, io quanto ti arrivo? Io sento uguale, a metà smette, 8-9. Va bene, io lo spengo, ciao ciao. Salva, qua ci sono tanti Pinocchio. Emanuele, non vi credi, sono tutti Pinocchietti, dici? Cazzo, ma arrivi con lo scalo, Franco, cazzo, da con lo scalo, stai tu, ma arrivi più pochi tu di Franco. Quanto ti arrivo io, Emanuele? Non vedete, però io te lo sai che l'antenna ce l'ho dentro casa e il segnale non te lo dà proprio preciso. Ne ho capito, io so capire un 4 watt comunque. C'ho il Superstar 3009, omologato però, questo qui esce con 4 watt e c'ha solo 40 canali, capito? Emanuele, guarda adesso, 1, 2, 3. Adesso sì. Ho cambiato postazione perché c'ho le camere da letto l'altro, che più è di meno, dà meno watt, capito? Sta facendo con pochi watt. Quanto è il segnale adesso? 9.30. Cazzo, mi arrivavi 9.30, ma prima mi arrivavi prima con lui. Sempre 9.30 il gioco, va. Sì. Ma chi su che è passato Gianni? La cosa era dall'altra parte, Franco, per quello usciva più basso con quell'altro. Per quello che gli ho detto, boh, mi sembra sano che sia a casa sua e a casa sua. Avanti, meglio no? Basta, basta. Prova, rubassa, rubassa, rubassa, rubassa, rubassa. Allora passa branco. Adesso sei col Kenwood. Ah? Col Kenwood sì adesso. Ma quale Kenwood? È un'altra radio questa. Si attacco l'altro, guarda adesso questo, mi. Quanto sto arrivando adesso? Quanto sono? 9. Miau. Cosa? Miau. Vabbè, comunque c'è propagazione, se entra qualcuno facciamo le prove furi, qua non fa fare le prove. Ciao Maiara, parla di totalino. Oia, vedi cante, 1, 2, 3. Sta salendo la propagazione. Prova la radio, prova la radio. Vai da bravo. Hai visto, ah? Io tu vengono a picchiarti e disturbi. Lo so che disturbo. Anche con questo disturbo, se per quello. Signore, io me ne vado là perché qua c'è troppo freddo, dai. E fai bene, sciatta rugaggio, va. Cos'è, Natali? Cosa? Non ho capito. Manuele, non ho capito quello che hai detto. No, pensavo che stavi chiamando a me, Natali. No, a Franco stavo dicendo, a farsene al caldo. Sì, che bello di freddo. Infatti, io qua già sto bene. Ma se ce la faccio salgo in piazza a vedere che cosa c'è di bello da comprare o da vendere. Ma c'è domani? Ah, lo so, fra o Manuè. Io sono rimasto al fatto che lo facevano, poi sono un po' che non ci vado, sarò un paio di mesi, però prima lo facevano. Lo sai che hanno aperto un nuovo negozio lì dove c'è Zara? Nuovo negozio, la Ragnatela si chiama. Come si chiama? La Ragnatela, mettono queste radio antiche, di tutto, giradischi, dischi e palle varie. Dove c'è Zara? Lasciami pensare, dove è Zara? Non me lo ricordo più. Certo, su via Rosero, per in piazza Tola. Ah, ecco, sì. Entri la piazza d'Italia, scendi giù. Sì, quella è. Non c'è la lupine, Zara, non fermi fra. Sapete di positivo, ho cambiato prestazione, dai, troppo là c'era. Dovevo aspettare a cedere la tuffa a pelle, ti capito, me la sono passato qua, dai. Vai all'interno, Manuè. Allora, quando passi l'angolo di via Zara, non c'è la banca. Manca la... si chiama? Facciamo un po' di cose la banca. Comunque c'è la banca, un po' più avanti della banca, sulla destra, c'è questo negozio, si chiama le Ragnatele, c'è l'insegna grande, le Ragnatele. Ah, ecco. È un negozio di usato, dai, c'ha di tutto. C'ha questa roba qua, ho capito. Sì, ho capito dove la banca. Ma in via Cesare Battisti oppure verso il corso devi andare? No, non si sceglie al corso. Devi girare subito dove c'è la banca. Ma è via Cesare Battisti, dai. Ti ricordi che c'era prima un negozio di animali? Esatto, sì. C'era... come si chiama? Zoomarket. Bravo. Un po' più indietro rimane. Dove c'era quel negozio di jeans? O dove c'era quello dove vendeva le scarpe? Bravo, lì vicino, a fianco. Ho capito. Ma non l'ho visto, l'altro giorno ci sono passato, non l'ho visto, va. Sono andato per farmi mettere a posto le luci, che dovevo mettere la batteria, eccetera. E sono passato lì a piedi, perché la macchina l'ha lasciata via Umberto, ma all'altezza del Carmelo, e sono passato lì. C'è un po' di roba, non è grande, però c'è un po' di roba interessante, dai. Più che altro mi interessano i dischi, anche se non ne sto più accendendo, però mi interessano. Con questa storia della luce sto cercando di risparmiare. Io sono da solo, mi è arrivata a 200 euro. A te? Allora è arrivata a 200, in due siamo, e l'aereo la lavora, quindi... Capito, non c'è mai in casa. Consumano un bel di corrente, Emanuele, quelli lì. Cosa fa? Le radio consumano un bel di correnti. E la radio si sta facendo un qualche odore, E valvole assolvono un bel di corrente, Emanuele. Ma quello che sto dicendo già, infatti. Le valvolare assorbono corretto perché prima di scaldarsi la valvola è umida di corrente. Mi chiede a Natalino che se l'ha schicchiato anche a radio spenta. Ha accumulato la corrente, l'ha toccato e l'ha dricosta. Sì, c'è lo so che rimane sempre la corrente dentro la valvola, c'è lo so anche spento. Lineare era, quello lì era un linearone, volevo togliere le valvole per conservarle, ma con tu chiacchiata, ragazzo, che so che ancora correnti. Mi ci sono fatti capire i dritti, tipo Beethoven. Piaggio di tu io, non toccarli. Cazzo, qui sarò voi che scido. E attore, vedi. Piaggio di tu io, tu che le hai toccati. Non ne sapevo io che c'erano i condensatori carichi. Cazzo, si era asciugato da chissà quanto tempo. Ando a cavare le valvole, cazzo, ci devo pensare voi che scido. Ma chi chiama, ma cutto, però, me. Cazzo, mi ha fatto la defibrillazione. A giù mai vi rimango. Cazzo, da l'altro ha fatto la tagli. Cazzo, è su quell'altra mi ha fatto. Vai, tu che sì. Ehi, cazzo, buonasera a tutti. Natalì, vabbè, nulla è già avuto. Negativo, to, tu informato ti sei? L'ho già chiamato, ma con riposo, ma... E allora vuol dire, allora già avremmo, mi studiamo per i fatti nostri. E ma infatti io ripasso là, capito? Non mi interessa. Eia. Era tipo la volta che stavo uscendo con la mattina di macchina e non salvate la volante, ma mi ha detto, vieni, ti do un alimentatore autocostruito da me. E altro, questo alimentatore che non c'aveva manco il coppir, che era tutto aperto. E era uno scheletro di alimentatore. La seconda volta che si è attaccata alla corrente, ha scoppiato, cazzo, mi ha fatto tutto nero, mi ha fatto diventare faccia, ha rubato una cosa allucinante, la faccia, tutta la mano nera. Grazie, Dio, io sono andato due già. Praticamente è diventato biondo. Cazzo, dico che mi sono spaventato, mi sono bussato due murelli mezz'ora. A me non mi ha riconosciuto come moglieri. Dici, che cosa sei biondo con gli occhi azzurri, mi ha detto. Sono cose che se quando si può ridere va bene, ma è brutto quando non può ridere più. E allora, deve essere che non c'era massa a terra in quel lineare, perché ho staccato dalla corrente, da tutto. Ho staccato prima il cappuccio delle valvole per poterla togliere, come ho toccato la valvola, Gesù Cristo mio. Il fuoco è uscito pure, ti sto dicendo che sta accoppiando. Cazzo, mi ha dato questa scossa, ma cazzo a terra mi ha cuccio. No, lo so, sono cose pericolose, bisogna saperlo che accumulano corrente. E se ne tu chi vuoi tutti i miei io di lui, intendi lo zocco. Avanti tu. Perché bisogna scaricarle prima le valvole, bisogna scaricarle e poi le puoi togliere. Io quando le ho tolte dal coso le ho scaricate prima, anche un cacciavite basta, amico. Un pezzo di ferro, le attacchi vicino e le carregheggia. Basta un filo di massa collegato a massa e al coso dell'apparecchio, al come si chiama, alla massa dell'apparecchio e si scaricano. Era un bel di tempo fermo mi questo lineare, cazzo, bisognava un paio di mesi fino di più puro fermo, era sudato e tutto staccato dalla corrente, nuda vera nei condensatori carichi, e bisognava. Ma con tutti i chiacchiati, ragazzi, me la mente ancora va. Infatti la scarica te l'ha data il condensatore, il coso della carica del condensatore, sull'emettore della valvola, perché le valvole non ne danno scossa, Natali, quando tu le tugli. Ehi, ma il condensatore, ma con tutta la chiacchiata. E allora, come ho toccato la valvola, però? Cazzo, ma cutto questa chiacchiata, il fuoco è uscito fra. che non lo dite a nessuno che le valvole danno la schicchiata, perché sono quelle, sono ricariche elettrolitiche dal condensatore. C'erano i condensatori carichi, io cosa ho detto? Sono rimasti carichi i condensatori, come è toccato io ha scaricato subito, boom! Ti sei acceso tu al posto delle valvole. Sì, ma dite, mia moglie, capite come ti mai usi biondo, veloci azzurri. Ma avevo migliorato. Cazzo, era un bel figo, era. Cazzo, mi ha fatto la radiografia, mi ha fatto. Natale, mi sono basso là che avevo visto la striscia di dal bar, ti ricordi quella persona che è passata? Però io sono dormito con il lineare attaccato, ha premuto la portata, è rimasta premuta la portata, si è dormito e la moglie che si è sbloccata, è andata a pure al turino, il fumo nero da tutte le parti, io tutto pieno di fuligine, di gossi. Poi forse accoppiando, è logico che che l'ha fatto nero, è il sudiero, un po' gufumi l'ha fatto. Oh via, oh varaggio, c'aveva il microfono di quelli da tavolo, aveva messo la portante fissa, capito? E lui si è dormito con l'ideale tutto attaccato, mi si è accasato, accasato, la mia, boom! E l'ha fatto lui a lui, e non mancato che chiada non è acuto. Però a me mi ha colto la chicchiata, burro. Ma era tutti i cazzo, sono vabbè. Infatti lineare io non ne toccherò mai in vita mia. Vai, vai. Ma io per le cose valvolari non sono mai andato matto, Sì, fanno una modulazione calda, quello che vuoi, ma come diciamo, convengono più quelli trasistorizzati, quelli valvolari devi tracciare valvole perché poi si esauriscono, cercarle, farle, non è tanto per pagare quanto per trovarle. Lo so, ma io volevo smontarlo quel lineare, no? Perché mi servivano i condensatori variabili per farmi un accordatore. Cazzo! Mamma mia! Cose pericolose sono. Altro che ciocca, Ma dove? A chi tocca? Avanti! Mi bravo con le valvole, Adriano, cazzo! Chi su? È un mostro con le valvole. Cazzo! Quando mi raggio raccontando attaccata a RD, cazzo. Gli apparecchi valvolari vogliono saputi regolare anche tutto quanto, perché hanno dei parametri da seguire per registrarli bene. Già lo so, Adriano, cazzo, se lo costruiva le cose addirittura, figurati se non lo sappi. Cazzo a me, quando la giurista mi ha colto la chicchiata attaccata a RD, giù mangiaci in terra, esatto. Perché lui lo sapeva che ti davano la scossa ai condensatori quando rimangono carichi. Sono degli accumulatori di corrente, no? Accumulano corrente e poi la scaricano come giù li tocchi. Se non do che sei arruinato, se toccavo il condensatore guai, anche peggio mi faceva. Io ho toccato la valvola per toglierla. Cazzo, ma chi ha da Gesù Cristo mio? Cazzo, ancora i capelli dritti, ragazzi. E la valvola ha fatto da conduttore, no? E allora, sono rimasti i condensatori, tanto ne avevamo un bel pacco dentro di condensatori, tutti carichi dovevano essere, cazzo, ma tu ti sei a botta di corrente paurosa. Cappa, cappa. Vabbè, non interessa per raccontarlo, Natale. Infatti, è più minaggio ducato, di raggio lampado, non ne va a fanculo. Io volevo recuperarmi i pezzi, no? Le valvole magari le regalavo a qualcuno che gli servivano. Ma cazzo, perché la verità, a me i lineari non è che mi piacciono tanto, non ne avevo mai usato. Vabbè, qualcuno già l'hai avuto anche tu, però sì, ma in effetti non è che servono più di tanto. Cazzo, ho avuto anche il 2001 io di lineare, dimmi tu. Era poco forse questo. C'era il modulatore, come si chiama? Il modulometro, che saliva, come modulavi saliva la striscia dei led che c'era, bellissimo era quel lineare che avevo io. Beh, proprio sei valvole, sei o sette una via, dentro, cazzo mia valvola. E poi c'era quello che era trasistorizzato, di quella lì di livello. Il 503 mi pare si chiama, una cosa del genere. Comunque il 2001 io ce l'avevo. Scappa. Quelli lì sono schicchiano forte, però poi quando c'è lineare cose del genere disturbi, fai, si rompo, ti rompo le scatole, lo fa usare. Quando chi c'è bisogno di cazzo, io la accordavo, cazzo, era una belva quella. Lo so, ti farà arrivare più lontano, ma diciamo che se puoi farne a meno non li usi, capito? Io non li uso quasi mai. E poi avanti, vai a usarlo uno di quei lineari lì, cazzo, che ti arrivi una vedda bulletta, una vedda garriga. E già mi arrivi da senza usarlo, più di 200 euro, 237 euro, già mi basta. Figurati, vai a usare uno di quei valvolari, cazzo. Se da 1000 watt te ne sta consumando 2000 di corrente. Ma in effetti no, io non li uso, sto uscendo con i watt dell'apparecchio, boh. E anche io no, 4 watt, che mi intendi. Cappa. E tu, Manuel? Comunque, Manuel, c'è un modo per parlare meno di luce, lo sai? Sì, è cosa? Collegate a una campagna. No, ti fai Mone Luis e te la pescano la metà. Sì, lo so, sono già Mone Luis. E non l'hai fatta la richiesta? No. Allora vai, lo fai. E te la scalano la metà. Automaticamente scatta, non c'è bisogno di fare nessuna domanda se c'è Lise. No, io so che mi vuole presentare al CAF. Il CAF a me mi ha detto che scatta automaticamente. No, non lo so, io non ne ho fatto, quindi non lo so, però stavo sentendo gente che l'ha fatto. E quando fai Lise? Fai Lise, una volta che c'hai Lise scatta automaticamente la... se non hai reddito, giustamente, perché se nell'ISE c'è scritto che c'hai reddito, balle sono. No, non è come dici tu, non devi superare i 12.000 euro, e in più se sei invalido hai più diritto degli altri. Ehi, lo so, io c'ho zero, per esempio. Io mi sono informato, l'ho chiesto a vedere, perché io non ci rientro, perché c'è anche la tredicesima, quindi prendo di più di 12.000, quindi non rientro, non posso farlo. E infatti, signor bella fregatura, che anche il linearone possiamo usare. Quindi stai attento a tutto, adesso scalda bagno, tutto quello che consuma. E infatti, cazzo, spiglia di ragù Putin, la benzina più cara, kerosene più caro, gasolio più caro, tutto più caro. E con tutto che io ci sto attento, Natale, perché la lavatrice l'attacco dopo l'otto, lo scaldabagno l'attacco alle 8 di sera, ci va lì domani mattina alle 8, eppure mi è arrivato allo stesso l'altro. Bisogna vedere come hai fatto il contratto, capitolai già. Cioè Adriano per esempio ha fatto un contratto che non paga un cazzo, sempre meno l'arrivi. Perché di notte non paga proprio nulla. E sabato e la domenica lo stesso niente. Cioè gratis alla sera corretta. Yes sir. Infatti mi ha fatto vedere la bulletta, arrivi meno, non li paga mai. chiedi il contratto e lo faccio subito. È contratto biorario, la notte non paghi, per esempio, e paghi solo quello che consumi di giorno. Hai capito? C'ha quel contratto lì, Adriano. Me l'ha detto lui e poi mi ha fatto vedere pure la bolletta, gli arriva meno, addirittura a credito va. Allora io ti dico una cosa, io ho quell'orario lo stesso, però non è che non paghi nulla la notte, paghi meno ma paghi sempre. No, no, lui non paga nulla proprio. A saperlo è questo contratto. Ma fa dire l'Adriano che contratto è, perché lui mi ha detto così, che lui non paga proprio nulla la notte. Infatti lui tutta la cosa che usa la usa la notte. E di giorno lui ha detto pago solo quello che consumo di giorno. Addirittura va a credito nella bolletta. A chi di lì non consuma un tubo. Ha trovato la società giusta, non è con Eve sicuramente. Non lo so, la verità non lo so, bisognerebbe chiederglielo. Franco, avanti. A che tocca, avanti. E se no, se vuoi sentire musica bella, amico, qua, senza avere lo stereo. In che senso lo stereo? Io telefono Adriano e dico metti musica Adriano e me l'ascolto da qui il concerto, c'ha un kilowatt con l'impianto va un kilowatt e non allora io che non ingaggio la domicilia. Ti ho detto l'altra volta sono andato a casa sua a minimo mi non lo vuoi a mine manco frenavano i vetri. Le colonnine che camminano da sole, mai viste le, ma colonnine manni, di proprio amprusi, fatte da lui. E si mettevano a camminare. Ma lui ha fatte. E allora, io la giuvate. Cazzo, c'ha questi coni, cazzo, paurosi. Adesso mio sono 8 le casse che ha lui. C'è una ne stava cadendo in terra perché si è messa a camminare la cassa. Allucinante. E non mi ricordo. Ma minimo mi. Cazzo, a minimo minimo mi. Me l'ha fatto bene mia, lo vedi a me. Se lui poco poco lo mette qua, la musica, io apro la finestra la sento qua, ma intendo un concerto, senza nessuna distorsione. Senti questa musica che guarda, ti miringhi di ridi. Ah, sono le case dei concerti. E allora, ti sto dicendo gatto, c'ha questo impianto pauroso. Che pezzi c'ha? Ehi, non lo so, guarda, tu sei, la devi solo sentire la musica come esce da casa d'Adriano, ti fa bene. Allora io lo scaldo il mangiare di secondo. Con c'è, digli a Gianni come c'è la musica da via. Bellissima. ha fatto tutto il quartiere, va. Ehi, ci messi da una con i belli dritti, quella di Ricciagosa. Vabbè, ha avuto sempre la passione lui, eh. In elettronica si è poi avuto la passione mia. Ma tu immaginaci, mi sei asciugata la gola e non riuscivo a parlare. Visto. Oh, yeah.